Alluse apertamente uno dei due alla loro differenza di razza? Nessuno dei due. Quali, ridotti alla loro più semplice forma reciproca, erano i pensieri di Bloom sui pensieri di Steven su Bloom? E i pensieri di Bloom sui pensieri di Steven, sui pensieri di Bloom su Steven? Pensava che egli pensasse che lui era ebreo, laddove sapeva che egli sapeva che non lo era. Quali, una volta rimosse le barriere della reticenza, erano le loro rispettive affiliazioni? Bloom, solo erede maschio transostanziale di Rudolf Virag, susseguentemente Rudolf Blum, di Zombatelli, Vienna, Budapest, Milano, Londra e Dublino, e di Ellen Higgins, seconda figlia di Julius Higgins, nato Caroli, e di Fanny Higgins, nata Hegarty. Steven, primo figlio maschio sopravvissuto, erede consustanziale di Simon Dedalus, di Cork e Dublino, e di Mary, figlia di Richard e Christina Golding, nata Greer. Erano stati battezzati Bloom e Steven, e dove e da chi? Chierico o secolare? Bloom tre volte, dal reverendo Mr. Gilmer Johnston, MA, solo officiante, nella chiesa protestante di San Nicola fuori le mura, Combe. Da James O'Connor, Philip Gilligan e James Fitzpatrick insieme sotto una pompa al villaggio di Swartz e dal reverendo Charles Malone, CC, nella chiesa dei tre patroni, Rathgar. Steven, una volta, dal reverendo Charles Malone, CC, solo officiante, nella chiesa dei tre patroni, Rathgar. Trovarono essi simili le loro carriere scolastiche? Sostituendo Steven a Bloom, Stum sarebbe passato successivamente attraverso una scuola privata e la scuola media. Sostituendo Bloom a Steven, Blifen sarebbe passato successivamente attraverso la scuola preparatoria, elementare, media inferiore e superiore e l'immatricolazione universitaria primo, secondo e terzo anno e laurea in lettere presso la Regia Università. Perché Bloom si trattenne dal dire che aveva frequentato l'università della vita? A causa della sua fluttuante incertezza circa il fatto se questa osservazione fosse o non fosse già stata fatta da lui a Steven o da Steven a lui. Quali due temperamenti rappresentavano essi individualmente? Lo scientifico, l'artistico. Quali prove addusse Bloom a dimostrazione del suo tendere alla scienza applicata anziché alla scienza pura? Certe eventuali invenzioni di cui aveva cogitato reclino in uno stato di replezione supina per aiutare la digestione, stimolato dal suo apprezzamento dell'importanza di invenzioni ora divulgate, ma un tempo rivoluzionarie, quali ad esempio il paracadute aeronautico, il telescopio riflettente, il cavatappi a spirale, lo spillo di sicurezza, il sifone di acqua minerale, la chiusa con argano e saracinesca, la pompa aspirante. Erano queste invenzioni principalmente intese a un progetto di miglioramento dei giardini d'infanzia? Sì, in quanto relegavano in soffitta pistole ad aria compressa, palloncini elastici, giochi d'azzardo, fionde. Comprendevano caleidoscopi astronomici per vedere i 12 segni dello zodiaco dall'ariete ai pesci, planetari meccanici in miniatura, pastiglie gommose con numeri sopra, biscotti geometrici da fare il paio con quelli zoologici, palloni mappamondo, bambole in costumi storici. Che altro lo stimolava nelle sue cogitazioni? Il successo finanziario raggiunto da Ephraim Marx e Charles A. James, il primo con il suo magazzino a prezzo unico a un penny al 42 di George Street Sud, il secondo con il suo negozio a prezzo unico da 6 penny e mezzo e il suo emporio universale e i suoi manichini di cera al 30 di Henry Street, ingresso 2 pence, un penny bambini. E le infinite possibilità finora mai sfruttate della moderna arte pubblicitaria, sia se condensata in formule simboliche trilaterali monoideali, della massima visibilità verticale, si indovina, della massima leggibilità orizzontale, si decifra, e di efficacia magnetizzante nell'arrestare involontariamente l'attenzione, interessare, convincere, decidere. Quali ad esempio? K11, chino 11, pantaloni. Ditta delle chiavi, Alexander J. Keyes. E quali altre no, ad esempio? Guardate questa lunga candela. Calcolate il tempo che ci mette a consumarsi e riceverete gratis un paio delle nostre scarpe di cuoio autentico. Garantite una candela. Indirizzare Barclay & Cook, 18 Talbot Street. Bacillicida, polvere insetticida. Non plus ultra, lucido da scarpe. Vi ci vuole. Coltello temperino pluriuso a due lame con cavatappi, limetta da unghie e pulisci pipe. E quali altre niente affatto? Ad esempio, una casa cos'è se la pasta di carne Plumtree non c'è? Incompleta. Quando c'è, è una casa da re, confezionata da George Plumtree 23 Merchants Quay, Dublino, venduta in scatole da 4 once. È inserita dal consigliere Joseph Pinannetti, deputato per la circoscrizione Rotunda, 19 Hardwick Street, sotto gli annunci mortuari e di trigesimo e anniversari di decessi. Il nome sull'etichetta è Plumtree, che vuol dire susino. Il marchio di fabbrica depositato è un susino in una pignatta. Diffidare delle imitazioni. Casta di Parne. Trumply. Posta di corna, Plumtree. Quale esempio addusse egli per indurre Stephen a dedurre che l'originalità, pur essendo una ricompensa di per se stessa, non conduce invariabilmente al successo? Il suo progetto ideato e respinto di un carro reclamistico illuminato, tirato da una bestia da soma, in cui due ragazze elegantemente vestite dovevano star sedute a scrivere. Quale scena suggerita fu indi mentalmente costruita da Steven? Albergo solitario in un passo montano. Autunno. Crepuscolo. Fuoco acceso. In un angolo buio un giovanotto seduto. Entra una ragazza. Inquieta. Solitaria. Siede. Va alla finestra. Resta in piedi. Siede. Crepuscolo. Pensa. Su carta d'albergo solitaria. Scrive. Pensa. Scrive, sospira, ruote e zoccoli, scappa via. Egli si alza dall'angolo buio, afferra la carta solitaria, l'avvicina al fuoco. Crepuscolo, legge, solitario. Che cosa? In scrittura inclinata, diritta, speculare. Queens Hotel, Queens Hotel, Queens Hotel, Queens O. Quale scena suggerita fu indi ricostruita da Bloom? Il Queen's Hotel, Ennis, Contea di Clare, dove Rudolph Bloom, Rudolph Virag, morì la sera del 27 giugno 1886, a ora imprecisata, per una dose eccessiva di strozzalupo, aconito, autosomministrato, sotto forma di linimento antinevralgico, composta di due parti di linimento di aconito per una di cloroformio. Da lui acquistato alle 10:20 antimeridiane nella mattina del 27 giugno 1886 alla farmacia di Francis Denny, 17 Church Street, Ennis, dopo avere, seppur non in conseguenza dell'avere, acquistato alle 3:15 pomeridiane nel pomeriggio del 27 giugno 1886 un cappello di paglia da spiaggia super elegante, dopo avere, seppur non in conseguenza dell'avere, acquistato allora e nel luogo anzidetto il tossico anzidetto al grande magazzino di James Cullen, 4 Main Street, Ennis. Attribuì egli questa omonimia a informazione, a coincidenza o a intuizione? A coincidenza. Tratteggiò egli la scena verbalmente perché l'ospite la vedesse? Preferiva vedere un altro viso. e ascoltare le parole di un altro, attraverso le quali si realizzava il racconto potenziale e trovava a sfogo il suo temperamento cinetico. Vide egli solamente una seconda coincidenza nella seconda scena a lui narrata, definita dal narratore come visione della Palestina dal monte Pisga o la parabola delle susine. Essa, con la scena precedente e con le altre non narrate ma implicitamente esistenti, a cui sono da aggiungere saggi su vari argomenti e apoftegmi morali, per esempio il mio eroe favorito, ovvero chi ha tempo non aspetti tempo, composti durante gli anni di scuola. Gli sembrava contenere in se stessa e in congiunzione con l'equazione personale certe possibilità di successo finanziario, sociale, personale e sessuale, sia ove fossero specialmente raccolte e opportunamente selezionate come temi pedagogici modello, merito 100%, ad uso degli studenti delle scuole elementari o medie inferiori, sia ove fossero inviate in base a regolare collaborazione, seguendo il precedente di Philip Beaufoy, del dottor Dick o degli studi in blu di Heblom, a una pubblicazione di larga diffusione e solvibilità, oppure fossero usate oralmente come stimolante intellettuale di uditori comprensivi, taciti apprezzatori di una narrazione felice e fiduciosamente auguranti un felice successo, durante le notti progressivamente più lunghe, gradualmente successive al solstizio d'estate nel giorno seguente più 3, e cioè martedì 21 giugno, San Luigi Gonzaga. Il sole sorge 3:33 antimeridiane, tramonta 8:29 pomeridiane. Quale problema domestico occupava frequentemente il suo spirito quanto, se non più, di ogni altro? Che cosa fare delle mogli? Quali erano state le sue particolari soluzioni ipotetiche? Giochi da salotto, domino, alma, salto della pulce, bastoncini, palla nella tazza, solitario di Napoleone, écarté, bazzica, trente et quarante, uomo nero, dama, scacchi o tric-trac. Ricamo, rammendo o maglia, per l'opera di raccolta indumenti con il patronato della polizia. Duetti musicali, mandolino e chitarra, piano e flauto, chitarra e piano. Copia di atti legali o indirizzi commerciali. Visite bisettimanali a spettacoli d'arte varia. Attività commerciale in qualità di graziosamente imperiosa e graziosamente obbedita proprietaria e padrona di una fresca latteria o di un caffè caldo per fumatori. La soddisfazione clandestina del prurito erotico in bordelli maschili sotto ispezione statale e controllo medico. Visite di cortesia a intervalli regolari, infrequenti e previsti e sotto sorveglianza regolare, frequente e preveggente, fatte e ricevute da conoscenze femminili di accertata rispettabilità nel vicinato. Corsi di studi serali particolarmente atti a rendere gradevole la cultura generale. Quali esempi di sviluppo mentale deficiente in sua moglie lo facevano propendere per l'ultima soluzione menzionata, la nona? Nei momenti in cui era inattiva, aveva più di una volta ricoperto un foglio di carta con segni e geroglifici, che ella asseriva essere caratteri greci, irlandesi ed ebraici. Aveva fatto costantemente e a diverse riprese domande circa la corretta grafia dell'iniziale maiuscola del nome di una città del Canada, Quebec. Capiva poco delle complicazioni politiche interne o dell'equilibrio di potenza estera. Nel riguardare gli addendi dei conti, spesso ricorreva al calcolo digitale. Dopo aver portato a termine laconiche composizioni epistolari, abbandonava lo strumento del calligrafo nel pigmento incaustico esposto all'azione corrosiva della coppa rosa, del vetriolo verde e della noce di galla. Polisillabi di origine straniera, poco usati, erano da lei interpretati foneticamente o per falsa analogia o per entrambi i processi. Metempsicosi, metti in che cosa, alias, un personaggio mendace menzionato nella Sacra Scrittura. Che cosa, nella falsa bilancia della sua intelligenza, Compensava queste ed altre tali deficienze di giudizio concernenti persone, luoghi e cose. Il falso parallelismo apparente di tutti i bracci perpendicolari di tutte le bilance, provato giusto costruttivamente, il contrappeso dell'efficienza del suo giudizio nei riguardi di una persona, provato giusto sperimentalmente. Come aveva egli tentato di rimediare a questo stato di ignoranza relativa? In vari modi, lasciando bene in vista un certo libro aperto a una certa pagina, supponendo in lei, nel fare spiegazioni allusive, cognizioni latenti, mettendo apertamente in ridicolo in sua presenza lacune dovute a ignoranza di terze persone assenti. Con quali risultati aveva egli tentato l'istruzione diretta? Essa seguiva non il tutto, ma una parte del tutto. Prestava attenzione con interesse, comprendeva con sorpresa, con cura ripeteva, con maggior difficoltà ricordava, dimenticava con facilità, con esitazione riricordava, riripeteva con errore. Quale sistema si era dimostrato più efficace? Il suggerimento indiretto implicante l'interesse personale. Un esempio? Ella detestava l'ombrello quando pioveva. Egli amava le donne con l'ombrello. Ella detestava un cappello nuovo quando pioveva. Egli amava le donne col cappello nuovo. Egli comprò un cappello nuovo quando pioveva. Ella portò l'ombrello col cappello nuovo.